Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Anche quest'oggi Giulio Caperdoni con voi. Sono un po' monotono negli inizi di Eclettica di questa settimana perché è importante che io ricordi come questa sia l'ultima settimana in cui Eclettica va in onda con tutti i suoi 5 volumi e tra le 19 e le 20, perché la prossima, l'ultima settimana di Rock FM, l'ultima settimana di Eclettica, ma di Eclettica su Rock FM non in senso assoluto, Eclettica sarà in onda fra le 20 e le 21 dal lunedì al giovedì, perché fra le 19 e le 20 avremo degli ospiti che ci verranno a trovare in quasi tutti i giorni della settimana. E poi l'ultima Eclettica sarà un'Eclettica edizione speciale con tutte le voci della radio e sarà nell'ultima 24 ore in un orario ancora da stabilirsi. Mi sento sempre attratto dai posti dove sono vissuto, le case e i loro dintorni. Per esempio, nella 70esima Est c'è un edificio di pietra grigia dove, al principio della guerra, ho avuto il mio primo appartamento newyorkese. Era una stanza sola, affollata di mobili di scarto, un divano e alcune poltrone paffute, ricoperte di quel particolare velluto rosso e pruriginoso che ricolleghiamo alle giornate d'AFA in treno. Le pareti erano a stucco, di un colore che ricordava uno sputo tabaccoso. Dappertutto, perfino in bagno, c'erano stampe di rovine romane, molto vecchie e tempestate di puntolini scuri. L'unica finestra dava sulla scala di sicurezza. Ma anche così, mi si rialzava il morale ogni volta che mi sentivo in tasca la chiave del mio appartamento. Per triste che fosse, era un posto mio, il primo, e lì c'erano i miei libri, i barattoli pieni di matite da temperare, tutto quello che mi occorreva, o così almeno pensavo, per diventare lo scrittore che volevo diventare. Questo era l'incipit di Colazione da Tiffany, di Truman Capote. Story when I tell you I'm the one I'm brainless. davanti a quel troione di sua madre. Hier ist sicher ein Lutenhaus. Was macht sie hier? Sie muss rausgehen. Ja, Mutter. Un pallemosce, sì. E ora che ci pensano, sempre io che andavo a comprare il fumo. Quella nullità restava tranquillo in macchina ad aspettarmi. E che gli fregava a lui se mi facevo arrestare? Che cretina sono stata, che cretina! American dreams, these giant television screens, these planes that can't be seen flying over everything, this broken factory, this Coca-Cola recipe, this counterfeit machine counterfeiting everything, this industry, these economics, these magazines, these Marvel comics. The next time Halley's Comet comes, I'll be churning 93. Now telescopes, they don't tell lies, and galaxies don't give advice. They're busy expanding, growing colder, growing older, just like me. Well, these American dreams, this crooked symphony, yes, it echoes through the concert halls like numbers on a bathroom wall, and saxophones and secret code whispers on your telephone. Words you used to know by heart are words you used to use back home. And it's California in the morning and New York in the evening. Woody Guthrie on your headphones speaking from another century. Now time may not be holding us, but time is not a friend I trust. I never liked him much, no, I never liked him much, and there ain't nothing you can do. And there ain't nothing you can do. Your folks were right. Your folks were right. Your folks were right. And there ain't nothing you can do. Oh, there ain't nothing you can do. Your folks were right. Your folks were right. Your folks were right. And now the time it might seem. È arrivato un bellissimo mail da Londra, ma me lo tengo per dopo, fra qualche minuto. Per il momento voglio solo, velocissimamente, riassumervi quanto vi siete già raccontati e presentarvi quanto vi state per ascoltare. Sunny Day Sets Fire, da Londra, anche loro. Fra l'altro c'è anche un componente italiano all'interno di questa internazionalissima band che ci siamo ascoltati con Brainless, poi seguiti dagli statunitensi Raid Masher, che hanno appena chiuso Today is Different. Invece ora è Italia. Un progetto dietro il quale si nasconde solo una persona, Vasco Brondi, 24enne ferrarese alle prese con la sua chitarra e il suo talento. Canzoni scarne, passionali come quella che ho scelto per farvi conoscere questo artista al debutto. Però ha deciso di non presentarsi col suo nome e il suo cognome, ma con uno pseudonimo, Le Luci della Centrale Elettrica. Esce per la Tempesta Dischi, in pratica quindi il giro, quello dei tre allegri ragazzi morti. E l'album si intitola Canzoni da spiaggia deturpata. La canzone che io ho scelto è la traccia numero 2, Per combattere l'acne. La notte atomica che ci ha rimboccato le palpebre, guardare il cielo malconcio di Chernobyl da qui, esprimere desideri, quando vedi scoppiare navicelle spaziali o moduli lunari. missio giapponese o americano e arrampicarsi sulle impalcature per prendere il sole e rivenderlo a qualche spacciatore. Lavarsi i denti con le antenne della televisione durante la pubblicità. Ho abbassato le saracinesche dei negozi sui miei occhi, con le nostre discussioni serie si arricchiscono solo le compagnie telefoniche. Siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser. E a Parigi dici che non volano mosche, benedirci in chiese chiuse e in farmacie compiacenti, sposarci con i cerotti usati in passeggiate su spiagge deturpate. Le piazze sono vuote, le piazze sono mute per combattere l'acne. Sono tutti in ferie, maratone sulle tue arterie, sulle diramazioni autostradali, sui lavori in corso solo per farti venire e invidiare le ciminiere perché hanno sempre da fumare. Le notti inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti, costruiremo delle Molotov coi vostri avanzi, faremo dei rave sull'Enterprise, farò rifare l'asfalto per quando tornerai. Siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito. Siamo l'esercito del ser. E i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti. Quando ho sentito parlare per la prima volta dell'arpa d'erba? Molto tempo prima di quell'autunno in cui andammo ad abitare sul sicomoro. In un autunno molto remoto, dunque. E certo fu Dolly a parlarmene, perché nessun altro avrebbe pensato a quel nome, arpa d'erba. Se, uscendo dalla città, imboccate la strada della chiesa, rasenterete di lì a poco una abbagliante collina di pietre candide come ossa e di scuri fiori riarsi. È il cimitero Battista. Vi sono sepolti i membri della nostra famiglia, i Talboy, Fenwick. Mia madre riposa accanto a mio padre e le tombe dei parenti, degli affini, 20 o più, sono disposte intorno a loro come radici prone di un albero di pietra. Sotto la collina si stende un campo di alta saggina che muta di colore ad ogni stagione. Andate a vederlo in autunno, nel tardo settembre, quando diventa rosso come il tramonto, mentre riflessi scarlatti simili a falò ondeggiano su di esso ed i venti dell'autunno battono sulle sue foglie secche, evocando il sospiro di una musica umana, di un'arpa di voci. Al di là del campo, le tenebre del bosco del fiume. Fu certo in una giornata di settembre, mentre raccoglievano radici nel bosco, che Dolly disse: «Senti, è l'arpa d'erba che racconta qualche storia. Conosce la storia di tutta la gente della collina, di tutta la gente che è vissuta, e quando saremo morti, racconterà anche la nostra». Questo era l'incipit de L'arpa d'erba di Truman Capote. You took a little bit pretty long. You repossessed. una banale storia d'amore. Per poco non mi stroncava. Allora, ci vogliamo svegliare? Senta un po', la scappata bella. È una fortuna che l'abbiano trovata col freddo che ha fatto. Ha avuto diverse bronchite. Le proibisco formalmente di fumare una sola sigaretta. Bene, il suo cognome? Satrapi. E il nome? Marjan. Dove abita? In Iran. Iran? Posso farti tutto? I see angels and bows beating trumpets of gold in the sky above the old rodeo. As I roll off my prison mattress and I drink from the station house sink, I can see that bladder in the water with my name bleeding newspaper ink. She was long, white legs and diamonds. I was a Long Island lawyer in black. I should have known as we walked through the world's fair that she'd die with a knife in the back. Across the bars, I can see Mr. Payne beyond the window frame in empty golden hills beyond the stars. I see San Antonio burning through the bar station window. I see angels on both beating trumpets of gold in the sky above the old rodeo. Questa mattina stavo, come tutte le mattine, prendendo la strada che da casa mi porta alla metropolitana. Quei sani 10 minuti a piedi che mi riportano sulla terra dal mondo dei sogni, ma nello stesso tempo mi permettono di sognare ancora un po', ascoltando un po' di musica. Io purtroppo non posso sentire Rock FM via radio, perché da circa un anno mi sono trasferito a Londra. Allora scarico sull'iPod le puntate di Eclettica e poi me le ascolto con calma, quando posso, quando riesco. Ho preso una puntata a caso, Eclettica, seconda parte del 24/4/2008. Non so perché proprio quella e non una più recente. Quando hai iniziato a leggere la lettera della mamma ascoltatrice di Rock FM, ero quasi arrivato in ufficio e tutto il mondo si è fermato. Ho provato quella sensazione che solo l'espressione groppone in gola può descrivere con efficacia. Tutto ad un tratto, dopo giorni di splendido sole, Londra è tornata a essere la triste e piovosa Londra. Ho camminato lentamente dalla metro all'ufficio, ripassando alla mente tutti i ricordi, tutte le sensazioni da quando, giovane rockettaro, li ascoltavo negli anni 90, quando, poco più di un anno fa, mi sono presentato in studio da voi. Volevo farvi delle fotografie, dei ritratti, e ingenuamente avevo la speranza di poter lavorare con voi, poter dare un contributo a quello che la vostra passione e tenacia stava tenendo insieme da anni e che secondo me aveva e ha un grande valore, non solo affettivo. Mi rammarico di non averlo fatto, non so che cosa sarebbe servito, ma sarebbe stato sicuramente bello. Sono stato molto contento di conoscervi, Marco, Max e Claudia, anche se solo per un attimo. L'impressione che conservo di voi, ragazzi, anche di te Giulio, attraverso la tua musica, le letture, le email, è di persone appassionate, coinvolte, vive, ricche. Vi auguro di trovare nuovi o vecchi modi per tornare a farci sentire quel trasporto per la musica che nessun'altra radio ha. E vi ringrazio per tutte quelle emozioni che mi avete regalato in questi anni. Un abbraccio, David. Questo era il mail arrivato da Londra che avevo preannunciato. Invece quella che vi siete appena ascoltati era la musica di Laniana, indiscutibilmente, dei The Felicity Brothers con St. Antonio's Burning e prima ancora The Radio Department dalla Svezia con Freddy and Trojan Horse. Ed ora scusatemi per la qualità non eccelsa del suono, ma è la musica quella che conta. È poco più di un demo, quello di questa band di Philadelphia, di nome Drink Up, Buttercup. Remember your sickness pills. Remember your sickness.